ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Da una parte le mafie, dall'altra i vari affaristi di turno. Gestire un'emergenza, soprattutto dopo un terremoto o un'alluvione, significa anche tener lontani furbetti e cricche varie dalla pioggia di soldi che arriva su quel territorio e che arriva pure in corsia preferenziale, senza cioè la normale trafila dei controlli, con tutta l'urgenza dettata dalla necessità di andare in soccorso di chi ha perso case o imprese. Intorno alle emergenze per le cosiddette calamità naturali, in alcuni casi si è costruito allora, come denunciano gli investigatori, una sorta di economia parallela. Un meccanismo creato apposta per riuscire ad intercettare soldi e vantaggi delle situazioni fuori dalla norma. E se la notte del terremoto dell'Aquila due imprenditori ridevano pensando agli affari della ricostruzione, ora 80 famiglie terremotate si ritrovano pure con i balconi sotto sequestro, perché chi ha costruito i moduli abitativi provvisori, i MAP, lo ha fatto in alcuni casi, secondo l'accusa, con materiali scadenti. Uno è crollato, altri sarebbero pericolanti e per questo ora interdetti. Così le famiglie sono passate da un sigillo all'altro, da un'impalcatura all'altra, da una zona rossa all'altra, dal danno alla beffa. La beffa dei costi maggiorati e dei materiali inappropriati, la beffa delle speculazioni sulle disgrazie altrui, più che gli appetiti delle cricche, sono stati quelli della mafia che hanno dovuto tener lontani in Emilia, in tutte le terre colpite dal sisma. Stanno per essere chiuse le inchieste sui principali crolli, soprattutto capannoni piombati sulle vite di operai, ingegneri e dei proprietari, anche per l'assenza di adeguate norme antisisma. Eppure già da anni, sia pur con ritardo, pure la burocrazia aveva già messo nero su bianco che quella del Modenese è anch'essa un'area sismica, al contrario del sentire comune. Ma di chi è ora la colpa per aver aspettato un terremoto prima di pretendere certe norme? Anche questo c'è nelle indagini della Procura di Modena, guidata dal procuratore Vito Zincani, incontrato all'Insolvenza Fest di Ferrara. Naturalmente, siccome sto per chiudere le indagini, non potrò fare riferimenti specifici. La prima cosa che colpisce quando si è di fronte alle emergenze e alle calamità naturali in modo particolare, tra l'altro siccome non ci facciamo mancare niente, sto per chiudere anche l'inchiesta sull'inondazione, è che l'emergenza da noi è diventata un meccanismo non più derogatorio ma di definitivo accantonamento delle norme ordinarie, ovvero il sistema degli interventi, delle imprese, dei protagonisti coinvolti a vario titolo nelle calamità naturali è già predisposta ad attendere la calamità naturale quale regola di funzionamento, ovvero alcune realtà contano sulla calamità naturale come una costante, perché è quella che permette di aggirare tutti i controlli. Anche il fatto che ci sia necessariamente una inchiesta per ogni singola calamità naturale è di per sé stesso un'anomalia. Nel momento in cui una calamità naturale, sia essa un'inondazione, sia essa una tromba d'aria, sia essa un terremoto, interviene su strutture fatte dall'uomo, se queste strutture sono manufatti recenti, dobbiamo chiederci per prima cosa in quale modo sono stati progettati e realizzati. Quello che subito, arrivando nel distretto di Medolla, di Mirandola, nei paesi più colpiti dal terremoto, immediatamente tutti dicevano a noi cronisti che arrivavamo, abbiamo scoperto oggi che questa zona è una zona sismica. In realtà le carte, e questo sono poi anche le inchieste che chiaramente andando a ritroso mettono i puntini sulle i, hanno confermato che era già sancito da tutte le parti che quella anche era una zona sismica, ma non erano stati presi provvedimenti. La difficoltà di affrontare con strumenti penali simili questioni nasce dal fatto che lo strumento penale è destinato a colpire delle devianze del singolo. Non è idoneo ad affrontare invece un deficit di cultura. Quella zona è stata dichiarata sismica ancora agli inizi degli anni 2000. Mi pare che il decreto sia proprio del 2004. Bene, malgrado l'Emilia Romagna sia una zona ad alta efficienza amministrativa, ci sono voluti 7-8 anni prima di apprestare gli strumenti amministrativi che modificassero le regole costruttive. Nel frattempo si è continuato a costruire e a gestire gli immobili come se la zona sismica non fosse. In ogni caso, gli strumenti apprestati valgono per le costruzioni future, non per il passato. Consapevolmente si era in un territorio sismico e ciò nonostante, appunto, sono stati necessari tanti anni per cominciare a cambiare le modalità di costruzione. Tutto questo ci porta anche necessariamente a parlare del post evento. Può succedere che manufatti che sono serviti ad accogliere i terremotati, come li chiamano i MAP, i moduli abitativi provvisori, o le casette, crollino uno dietro l'altra, e adesso sono stati sequestrati 80 balconi, 80. Può succedere che nelle case poco dopo, pagate anche a non pochi soldi, le case che accolgono i terremotati, ben presto non solo ci siano problemi di manutenzione molto seri, ma ben presto si scoprano interessi di vario genere. Può succedere, come le intercettazioni dell'Aquila hanno mostrato, che appunto ci siano imprenditori che non solo la notte stessa del terremoto già al telefono si complimentavano una vicenda per gli interessi che avrebbero di lì a poco fatto, altri imprenditori che si dicevano: ma qui il lavoro sta tutto nell'imbrogliare, hai capito? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anni di emergenze in Italia hanno ormai reso edotti gli affaristi di turno sulla possibilità, dopo un'emergenza, di fare affari. E questo perché il meccanismo delle emergenze fa saltare una rete di controlli. Il nodo dell'emergenza, che da una parte deve essere tempestivo, dall'altra allo stesso tempo deve prendere degli interventi che siano efficaci, sembra quasi un ossimoro. Le imprese sono strutturate in funzione dell'emergenza. La disgrazia per alcuni è una ghiottissima occasione d'affari per altri. Abbiamo avuto in Emilia un vantaggio. Per dare subito un dato, molti dei manufatti sono stati ricostruiti anche attingendo alle assicurazioni. Ma il terzo punto era la comprensione che i meccanismi di operatività della criminalità nel campo delle attività costruttive opera molto diversamente a seconda delle zone. Mentre in alcune zone d'Italia potremmo dire la criminalità gestiva in prima persona l'intero ciclo produttivo, l'impresa era un'impresa mafiosa che faceva capo direttamente a mafiosi o a semplici prestanomi. Da noi è avvenuta un'altra cosa molto diversa, che silenziosamente l'impresa ha dovuto fare i conti con la penetrazione in settori strategici di elementi collegati alla criminalità organizzata. I settori strategici sono movimento terra, calcestruzzo, trasporti, cottimi, manodopera. In qualche misura, soprattutto adesso, in seguito a una forte crisi finanziaria, il mercato dei capitali. Qualunque impresa operi in un territorio dove il crimine organizzato controlla questi settori deve operare alle condizioni stabilite dal crimine organizzato. Questo vuol dire che tra le righe in qualche modo avete dovuto frenare anche voi i rischi di infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post terremoto? Ecco, quindi questo ha reso necessario predisporre una cintura di sicurezza, cioè creare un controllo capillare, che è stato anche molto pesante da affrontare per le imprese, ai quali abbiamo chiesto un ulteriore aggravio per verificare che in tutti i segmenti in cui si articolava l'attività produttiva non vi fossero legami neanche potenziali con imprese mafiose. Il secondo punto è il controllo diretto sui cantieri. Occorre verificare fisicamente tutti i mezzi e tutti i soggetti che entrano ed escono dai cantieri. Non di meno, alcuni problemi però ci sono stati ugualmente. Almeno due aziende sono state bloccate dopo la scoperta di legami con la camorra Il rischio di infiltrazione della malavita organizzata che spinse il Viminale a mandare in Emilia anche un cacciatore di boss latitanti e il pericolo degli appetiti delle cricche spaventano le multinazionali. È una delle più importanti, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo, è andata per questo a bussare alla porta della procura. A ciascuno il suo. Più che il terremoto, a volte spaventa la ricostruzione. Più della terra che trema, a volte spaventa la mano dell'uomo che vuole ricostruire. È successo così che dopo il crollo dei capannoni nel distretto di Mirandola e Medolla, nel Modenese, l'amministratore delegato di una delle principali multinazionali del biomedicale abbia sentito il bisogno di andare in procura e chiedere garanzie di legalità negli appalti futuri. Una difesa, cioè, dagli interessi delle cricche e dalle infiltrazioni dei clan, che subito avevano mandato i loro segnali. I roghi dei camion addetti al trasporto della terra, sei solo a Reggiolo, nel Reggiano, sono arrivati infatti insieme agli annunci dei finanziamenti. Trasformare la terra in oro è anche in Emilia uno degli affari delle 'ndrine calabresi, come la cosca Napoli Mercuri di Polistena. E di tutto questo restano tracce chiare per chi sa leggere quel codice, come cono incognito mandato dal Ministero dell'Interno in Emilia dopo anni di esperienza in Sicilia nella Catturandi, la squadra cioè che va a caccia dei latitanti. Perché anche questo incide sugli investimenti dall'estero in Italia, più che mai ambiti ora in un momento di crisi, quando pure nella ricca Emilia 1300 procedure fallimentari si contano. Alla richiesta di legalità dopo gli scandali Expo e Mose, il governo ha risposto con i poteri dell'autority anticorruzione di Raffaele Cantone, ma l'importante, avverte il procuratore capo di Modena Vito Zincani, incontrato all'Insolvenza Fest, è che non si risolva tutto in ulteriore vuota burocrazia. I fenomeni corruttivi, per esempio, sono incentivati dalla maggiore complicazione burocratica. Il problema è come invece incidere su quei controlli che sono decisivi. Uno, per esempio, sui flussi finanziari. Sono operative delle new co costituite con 10.000 euro di capitale, con il minimo, le quali però realizzano opere per milioni di euro. Quando siamo andati a fondo a queste cose, abbiamo trovato garanzie bancarie a fideiussione a prima richiesta date da banche svizzere. Com'è possibile che se io mi reco in banca vogliono una serie di garanzie e poi ci sono delle imprese di questo tipo che accedono al credito con grande facilità e chiaramente hanno delle garanzie collaterali? Non possiamo più continuare in questa maniera, non possiamo aspettare che poi il pentito di turno, adesso Iovine, ci venga a dire: guardate che quella impresa lì in realtà è cosa nostra, se volete vedere le garanzie prendete questa società, andate a guardare i conti svizzeri e vedete. Allora, prendere come punto di partenza ad esempio la spia dei massimi ribassi? Primo, che noi dovremmo agire più sulla prevenzione che sulla repressione. Man mano che si evolve l'attività criminale in questi settori ad opera anche dei sistemi di neutralizzazione delle agenzie di controllo, è anche ovvio che la maggiore trasparenza finanziaria significa poi non poter più evadere il fisco, significa non poter più evadere i contributi previdenziali e così via. Siamo arrivati al punto in cantiere in cui ci sono le vedette che quando arriva una macchina dei carabinieri o l'ispettore del lavoro, quando arrivano non c'è più nessuno sul cantiere. Avevo conosciuto le vedette di Scampia, dei quartieri, delle piazze di spaccio camorriste, diciamo, o malavitose, sì, alle vedette dei cantieri. Per esempio, i montaggi dei prefabbricati industriali. Se invece prendiamo una squadra che naturalmente non mettono le cinture, lavorano in nero, eccetera, sono, il tempo è dimezzato. È in qualche modo anche quello che è successo in quei 10 anni in cui in Emilia, diciamo, dalla certificazione dell'esistenza della sismicità del territorio fino al terremoto, di fatto. È successo in tutta Italia, non solo in Emilia. Sarà sacrificata anche la sicurezza? Che riguardano la sicurezza, riguardano gli oneri contributivi, le procure vanno, scavano, eccetera, ma questo non cambia sostanzialmente le cose. Sono le grandi inchieste a portare, a smuovere, diciamo, la situazione. Lo abbiamo visto con quello che è successo con Expo, nel senso che soltanto dopo il clamore dell'inchiesta e degli arresti legati agli appalti per Expo a Milano si è arrivati a ripristinare una figura che già c'era in passato e di cui già da tanto si parlava, come quella dell'autority anticorruzione, il dottor Cantone. A proposito appunto dell'Expo, ha presentato di recente una nota con, diciamo, le richieste di agire sulla documentazione di gara, sulla commissione giudicatrice, sugli affidamenti, l'esecuzione del contratto e gli affidamenti diretti, evitando massimo ribasso, requisiti di ammissione troppo stringenti e limitando la discrezionalità della commissione giudicante. Quello della discrezionalità della commissione giudicante mi sembra essere una costante, perché noi adesso stiamo parlando delle emergenze legate a calamità naturali, ma sono state trattate come emergenze, quindi facendo saltare tutte le trafile classiche dei controlli, anche i grandi eventi, come c'è un grande ambaradan, ma alla fine si riduce tutto a quella che ora viene chiamata cricca, ora viene chiamata giro di amici, che può in qualche modo spartirsi i propri interessi. Laddove un'impresa, sia essa legale o illegale, poco conta, raggiunge dimensioni economiche rilevanti, ha anche una rappresentanza politica. È diventata la regola l'emergenza, la normalità. Cioè i pubblici poteri non intervengono, aspettano che le situazioni diventino ingestibili, poi improvvisamente questo diventa un'emergenza. Sì, io sono nato a Venezia, no? A Venezia non si puliscono più i canali, non si fa più la manutenzione della città, si attende che l'acqua alta diventi ingestibile per poi varare il grande progetto i cui esiti, tra l'altro, non si sa ancora quali saranno anche sul piano ecologico, perché venendo meno il ricambio di acqua nella laguna, per i veneziani è quasi certo che morirà la laguna. Questo modo di fare impresa è diventata una delle strade che viene battute in Italia da tempo e che è vincente sul piano economico, perché intercetta enormi flussi finanziari e li gestisce. Quello che poi in realtà, quando si tratta di emergenze legate a calamità naturale, fa doppiamente male è che tutto questo poi ricade nella quotidiana vita di quelle popolazioni che sono colpite da quella calamità naturale, perché se in Irpinia ci hanno messo anche 30 anni in alcuni casi a ridare delle case alle persone terremotate, nonostante i fiumi di soldi che sono stati spesi, se all'Aquila i terremotati, gli sfrattati, diciamo, dal centro storico ora si ritrovano con le case di nuovo sotto sequestro, perché chi le ha costruite ha pensato di costruirle, almeno stando alle accuse delle inchieste tuttora in corso, con materiali scadenti. Questo è il danno che si aggiunge alla beffa. Anzi, ha detto qualcuno che la parola stessa emergenza è una parola terremotata, perché è una parola che è stata, diciamo, scalzata dal suo significato iniziale. Dopo la vicenda Expo e Mose, così tutta l'attenzione si è concentrata sui poteri e sul ruolo dato al dottor Cantone. È sembrato un po' che in qualche modo si sia voluto dare a lui un po' il ruolo del Deus ex machina, cioè della figura che arriva, quindi con un incarico nuovo, con poteri nuovi, a risolvere un po' tutti quanti i problemi. Ci sono anche degli aspetti simbolici importanti. Se avrà i poteri necessari per incidere e se questo basterà, siamo tutti convinti che questo non basta. Ecco, diceva Mirandola, ci sono molte multinazionali. Una di queste è americana, fa capo alla Baxter, una delle più grandi imprese. Loro sono attentissimi ai profili di possibili infiltrazioni di qualunque forma di illegalità, perché evidentemente il rischio Italia è diventato anche questo, cioè tanto che a un certo punto si è fatto quasi comprendere che sarebbero stati pronti a trasferire altrove l'intera attività produttiva. Il contesto, legalità, illegalità, eccetera, diventa decisivo per gli investimenti. Postano dove a loro conviene produrre. Tra i fattori che determinano la scelta di convenienza c'è il controllo di legalità. L'amministratore delegato di una di queste imprese, una delle più grandi del mondo, è venuto nel mio ufficio e ha detto: noi vogliamo avere l'assoluta garanzia, perché stiamo investendo 50 milioni di euro per ricostruire, vogliamo avere l'assoluta garanzia di non avere problemi assoluti di legalità. Lei ce lo deve garantire. Su questo fronte, anche in Calabria, a un certo punto si era pensato, diciamo così, di scortare delle imprese, le multinazionali, nella piana di Gioia Tauro. Quindi, secondo lei, nei casi specifici delle emergenze, per evitare tutto questo che abbiamo fin qui raccontato, dobbiamo conservare il controllo? Se decido di incamminarmi su una strada asfaltata come un biliardo con un'automobile, devo tuttavia progettarla, tenerla in condizioni di manutenzione e guidarla in condizioni tali per cui se trovo una buca non vado fuori strada. Noi dobbiamo programmare il nostro futuro utilizzando progetti, mezzi, capaci di tener conto già in anticipo dell'emergenza, non attenderla, ma questo significa scontentare coloro che invece dell'emergenza hanno fatto l'occasione della loro business e della loro attività di impresa. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.